Mentre sta auscultando i polmoni malati di un suo paziente, il consigliere Behrens, medico in capo dell'ospedale in cui Thomas Mann ambienta la montagna incantata, discetta dei rapporti fra libidine e tubercolosi. È colpa sua? Colpa sua, si chiede, se la tisi è congiunta ad una speciale concupiscenza? È stato perfino costretto ad allontanare dalla sua casa di cura numerosi pazienti perché non riuscivano a mantenere un contegno adeguato, nonostante che lui la ricetta giusta gliel'avesse suggerita. Niente di meglio, infatti, per combattere la concupiscenza che lo studio della matematica. E fa il caso di un paziente virtuoso che, da quando si è dato al problema della quadratura del cerchio, al sesso non ci pensa proprio più. Questa riflessione di Mann in verità viene da lontano. È dal 1644 al 1660, a Parigi e dintorni funzionarono le cosiddette piccole scuole di Port-Royal, che rappresentavano una severa sterzata in senso antirinascimentale e davano consistenza civile all'insegnamento del teologo fiammingo Cornelio Jansenio, o meglio Cornelis Jansen. I vari Le Maître de Sacy, Lancelot, Arnaud, Nicole e Pascal si diedero da fare per dimostrare l'estrema corruttibilità dell'animo umano e il bisogno di energici quanto indifferibili rimedi. Fra le tante sciocchezze, Pierre Nicole ha anche scritto la prefazione ai Nouveaux Elements de Géométrie di Antoine Arnauld, con cui ha scritto la famosa logica di Port-Royal, no? E con cui rimase in ossequioso amicizia quasi tutta la vita. In questa prefazione ai nuovi elementi di geometria, dice che la geometria medesima può servire a formare i giovani non solo alla precisione mentale, ma anche in qualche modo alla pietà e al regolamento dei costumi. Fra gli esercizi umani che possono maggiormente servire a diminuire la concupiscenza ed a predisporre la mente a ricevere le verità cristiane con minore opposizione e disgusto, secondo Nicole, sembra non ci sia niente di più appropriato che lo studio della geometria. La mappatura del mondo secondo rigidi modelli di riferimento, la misura e l'esperimento mentale, la distanza dall'empiria, o in una parola il calcolo, dunque il calcolo mal si adatterebbe all'espressione delle proprie pulsioni sessuali. Chi si arma di righelli, goniometri e tavole dei logaritmi o calcolatrici da taschino non saprebbe allora che, mentre ne usufruisce gioiosamente, sta incautamente reprimendo una parte di sé che, perlomeno nel rapporto con l'altro, è essenziale. Ormai bisnonna, la signora Bianca Lamblin scrive e pubblica Le Mémoires d'une jeune fille dérangée. Tradurrei le memorie di una ragazza disturbata, o forse tradurrei meglio di una ragazza messa a soqquadro. In esse parla dei suoi rapporti sessuali con Simone de Beauvoir, sua professoressa al liceo, e con Jean-Paul Sartre, che di Simone rimase amante tutta la vita. All'epoca Sartre più o meno aveva già scritto La nausea, perché l'ha scritta nel 38, aveva scritto i racconti che costituiscono quelle sotto il titolo del Muro, che erano usciti nel 39, mentre invece L'essere e il nulla sarebbe apparso nel 43. Questi loro rapporti, a quanto pare, furono interrotti dalla guerra e dalle persecuzioni razziali. Bianca Lamblin era ebrea e le è rimasto il forte sospetto che né la de Beauvoir né Sartre volessero rischiare qualcosa in proprio per salvarla. Lei si salvò lo stesso, e anche Sartre, peraltro, venne catturato il 21 giugno del 40 e internato a Treviri brevemente. Se la cavò di lusso e a quanto pare ha potuto tornare a casa per dare il suo contributo alla resistenza francese. L'episodio, al di là dell'inoculare il sospetto che non proprio tutto brilli di autentico lindore nell'esistenza del filosofo e della sua compagna, E d'altronde, ecco, d'altronde io da uno che negli anni 50 diceva che l'Unione Sovietica era il paese dove c'è il massimo di libertà, vabbè, da uno così non mi aspetterei poi niente di buono, ma al di là di quest'ombra peraltro pesante, l'episodio mi ha incuriosito per un dettaglio all'apparenza secondario o forse soltanto all'apparenza folcloristico. Allora, Simon prima si porta a letto Bianca e poi la convince a farsi deflorare da Jean-Paul. Lei, soggiogata dall'esistenzialismo francese, acconsente, come acconsente Jean-Paul che, una volta indicatole il letto, testualmente riferiscono le memoir, si spogliò completamente nudo e si lavò i piedi. Anche se il racconto di Bianca fosse solo all'inizio, io mi fermo qui. Si spogliò completamente nudo e si lavò i piedi. La sequenza, nell'incredibile ordine che contraddistingue i suoi eventi costitutivi, allora una bella fanciulla nel letto, la sua prima volta, lui che si spoglia nudo e che da nudo si lava i piedi, la sequenza la dice lunga sull'intellettuale e sui guasti della cultura negli organismi biologici. Non so fino a che punto Sartre avesse dimestichezza con matematica e geometria, ma so per certo che quanto fa è l'esito di calcoli sottili e complessi, e che questi calcoli sarebbero sufficienti ad annichilire la concupiscenza di un bonobo o di una scimmia catarrina cinocefala mandrillo sphinx dopo un lustro di astinenza. Mettiamo pure che a Sartre puzzassero i piedi, mettiamo e non concediamo, si sfila i calzini, vabbè, li getta più lontano che può, si rimbocca i pantaloni, li mette a mollo e agisce di sapone. E comunque lo fa prima di mettere lei a letto, perché ci sono attività a cui le pause sono letali. Sulle prime c'è un senso, dopo una pausa ce n'è irrimediabilmente un altro. È come passare dall'amore all'ostetricia, un checché di professionale e di razionalità meschina investe di sé la situazione. All'interprete debole non resta che serbarne dolorosa memoria per raccontarne in vecchiaia nipotine sgomente, mentre all'interprete forte della situazione, il filosofo, il noto intellettuale di sinistra, tocca di controllare la rigorosa gerarchia delle proprie funzioni. Riflette su cosa si deve fare in simili frangenti. Ci si mette nudi e se nel corso dell'operazione ci si accorge che qualcosa non va, ci si lava i piedi. Ci si lava i piedi comunque e soltanto i piedi, anche se puzzasse il resto, perché ai piedi, così lontani dall'organo intellettivo, è concesso di essere sporchi e puzzolenti, perché non ne vanno di mezzo né la dignità né l'amor proprio di chi pensa con la testa.